Il bascià e il mercante, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Col segreto favor d'un gran bascià, in Oriente un greco mercatante faceva affari d'oro, e poi che costa cara ad un altro protettor la grazia, pagava il protettor non da mercante, ma da bascià. Ma paga e paga e paga, a lungo andar questo pagar ricrebbe al nostro greco, e s'indolea, dicendo di non poterne più, quando tre turchi soffrirono di concedergli favore a men prezzo, in tre che non spendesse prima per uno. Il greco accetta. Intanto si conobbe la cosa e ognun dicea che avria dovuto il gran bascià vendetta trarne, mandando i suoi vassalli in cielo a portare un messaggio a Maometto. Se tu non lo fai, dicea qualcun de suoi, ti preverranno per paura i tristi, e per quanto tu chiuda anche i cancelli del tuo palaggio con sottil veleno, a proteggerti mandano in turbante i falsi mercatanti in paradiso. Ma il turco a questo dir nuovo Alessandro non diede retta, e con sereno spirito trova un bel giorno il suo mercante in casa. Siede alla mensa ed in diversi e schietti discorsi entrando gli mostrò che nulla diffidenza era in lui, quindi gli disse: «Amico, io so che tu mi lasci e alcuni voglion ch'io tragga orribili paure, ma tu sei troppo galantuomo, amico, e la faccia non hai d'un uomo che il suo tempo passi a mescer veleni, ond'io men rido delle chiacchiere altrui. Pace, e se brami sul conto di codesti a te novelli, amici, udir quel ch'io ne penso, ascolta senza andar per noiose querimonie». Una fiaba che allor calza a pennello. C'era una volta un cane ed un pastore, e c'era anche un armento. Dicea la gente: «A che ti serve un cane sì grosso che per solito alimento ti mangia ad ogni pasto un grosso pane? Sarai più saggio se lo vendi al signore del villaggio. Un paio o tre di piccoli mastini costa meno a un uomo come te, e fa la guardia più che non la faccia da sola questa grossa bestiaccia». Il buon pastor credé e tre mezzani mastini prese e risparmiò dei pani. Ma se il grosso mangiava almen per tre, era tre volte a morder più forte, quando per sorte, con general spavento, venivano i lupi a minacciar l'armento, mentre quell'altre bestie assai men care erano tre a scappare. «Se tu sei saggio, fidati di me», soggiunse il buon bascià, «o proverai di questa favoletta la triste verità, la qual dimostra ancora come convenga ai piccoli paesi appoggiarsi a un monarca di gran prezzo che non è cento re d'un soldo al pezzo». Fine della favola Il bascià e il mercante. Questa registrazione è di dominio pubblico.